X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Prendiamo le distanze da Bob. Diciamo che ha alle spalle una bella sfilza di iniziative personali, che non abbiamo alcun controllo su Bob da anni. Diciamo che è già in atto un'indagine interna sulle attività di Bob. Inventate il resto. Era una scena del film Siriana che racconta la storia drammatica di un agente segreto americano utilizzato e poi abbandonato dai suoi. Oggi anche noi raccontiamo la storia di un agente segreto, un agente italiano, protagonista di una storia incredibile al limite dell'impossibile. Il suo nome in codice è Casper, quello vero è Top Secret. La sua storia è magistralmente raccontata in un libro, Super Notes, uscito da qualche giorno con Mondadori, che penso farà discutere. Casper è un ex carabiniere, poi agente irregolare dei servizi segreti e del ROS. Ha subito ogni tipo di tortura prima di riuscire a fuggire. La violenza che dice di aver subito è simile a questa. Bob, che cosa sai dei metodi di tortura usati dai cinesi sui Falun Gong? Metodo numero uno, goccia cinese. E il metodo numero due? Numero due, torsione del braccio e faccia pressata sulle feci. Non ti interessa il due. Numero tre. Il numero tre prevede lo strappo delle unghie e delle dita. Che ne dici, Bob? Il numero tre ti gusta? Beh, sei fottuto, amico. Allora, agente Casper, le è andata meglio o peggio di così a lei? Buongiorno, dottor Minoli. Mi è andata forse un po' meglio perché non mi hanno strappato le unghie. Per tutto il resto ho visto uno show piuttosto devastante. Senta, ma per quanto tempo è stato torturato durante il suo, diciamo, rapimento? Beh, è stata non stop. Le torture sono state intervallate da periodi in cui stavo troppo male per essere picchiato. Febbre di dengue, malaria e quant'altro. Ma che cosa aiuta a resistere alle torture? Dunque, prima di tutto lei deve pensare che io mi trovavo in uno stato di spossatezza fisica assolutamente eccezionale. Avevo fame e sete continuamente e quindi non sognavo quasi più casa né la mamma né la fidanzata, ma sognavo di mangiare. E questa sembra una cosa un po' patetica. In che paese stava? Stavo in Cambogia. E la cosa che mi ha più aiutato è stata il costante pensiero della fuga, dell'evasione. Senta, ma durante le torture si scoprono delle energie vitali insospettabili? Assolutamente, io ritengo di aver ricevuto un ottimo addestramento nel corso della mia vita, della mia carriera. Perché lei è stato addestrato addosso, sì. Assolutamente. Ma ecco, facciamo un piccolo passo indietro. Provi a raccontarsi brevemente per far capire agli ascoltatori con chi sto parlando, visto che il nome non lo possiamo dire perché è coperto. Carabiniere alla fine degli anni 70, alla fine del servizio nell'arma, reclutato nell' aliquota di Stay Behind, caduta del muro di Berlino, quelli molto bravi sono poi stati reimpiegati in attività che valorizzavano le proprie qualifiche. Ecco. Lei era fra i molto bravi, infatti di missione speciale mi pare che ne ha fatte molte prima di quella raccontata nel libro Super Notes. Ecco, ne ha fatte molte? Ne ho fatte diverse e, partendo per l'appunto dalla fine degli anni Ottanta. Senta, tutte segrete e sotto copertura? La maggior parte sì, a parte due missioni piuttosto eclatanti che hanno avuto anche una notevole risonanza sulla stampa. Ecco, sta parlando di Pilota e di Sinai? Pilota e Sinai, esattamente. Che cosa erano esattamente queste due missioni? L'operazione Pilota fu l'infiltrazione nel seno di uno dei cartelli più importanti colombiani, che trafficava in cocaina e che aveva intenzione di per l'appunto utilizzare un pilota per trasportare la cocaina in Europa. E lei è stato quel pilota? Io fui quel pilota per conto del ROS, per conto del ROS, sì, pilotava, e dove lo portava? in Europa sta cocaina? Beh, l'operazione ormai è diventata, è di dominio pubblico, sì. Gli atti sono ben conosciuti. I cartelli mi proposero di effettuare una cosa che era abbastanza rivoluzionaria per l'epoca, ovvero un trasporto che evitasse tutti i problemi terrestri, quindi container, navi e quant'altro, con la droga che sarebbe dovuta partì effettivamente dall'aeroporto Rio Negro di Medellin e per poi arrivare nel piccolo aeroporto toscano di Firenze Peretola, all'epoca piccolo. E di lì poi distribuita ovviamente sotto il controllo della Procura della Repubblica di Firenze e del ROS. E Sinai cos'è stata? Sinai fu un'operazione molto simile che si incrociò con la fine dell'operazione pilota e si concluse in maniera forse meno eclatante quando la droga arrivata in Toscana partì per il resto dell'Europa. E cosa capitò? Capitò che la procura non se la sentì probabilmente di lasciare che questa droga uscisse dal territorio nazionale e quindi l'operazione fu stoppata, diciamo. Ma il fine qual era? Il fine era quello di seguire il flusso delle sostanze, la catena? Certamente, non solo, ma anche seguire il flusso della finanza, del denaro che si accompagna a queste transazioni, che è assolutamente impressionante. È tanto importante quanto stroncare il traffico. Probabilmente stroncare il traffico è paradossalmente il traffico di sostanze è più facile che fermare questo immenso flusso di denaro. Senta, il generale Del Ross, che è in pensione adesso, Ganser, di lei ha detto: Casper è un uomo molto intelligente ma anche molto avventuroso, e in quell'avventuroso c'è tutto. Non ha detto è tutto vero quello che racconta, perché secondo lei non lo sa o non si sbilancia? Il generale Ganser, del quale mi onoro di essere amico da molti anni, fa bene a dire quello che dice, perché prima di tutto effettivamente di alcune iniziative da me intraprese indipendentemente lui non sapeva assolutamente nulla. E poi non dimentichiamoci che il generale Ganza in questo momento si sta difendendo con successo, per fortuna, da accuse pesantissime che gli vengono mosse. Senta, sentiamolo allora, qual è questo segreto che lei ha conservato per 13 mesi a cui nessuno dava credito? L'agente Casper aveva scoperto un segreto chiamato Super Notes, banconote da $100 vere ma false, stampate con macchine e cliché autorizzati, con cui l'intelligence americana paga clandestinamente ciò che l'opinione pubblica non può e non deve conoscere. Regimi canaglia, narcotrafficanti e tutto ciò che si può e si deve pagare al mercato nero della sicurezza nazionale. Le zecche americane del Bureau of Engraving and Printing che stampano banconote non sono due, ma tre. La terza, macchina, carta e tutto il resto, inclusi i rarissimi marcatori, non si trova sul territorio statunitense, bensì in Corea del Nord, il paese del dittatore pazzo che gioca con l'atomica, delle esecuzioni di massa, delle minacce e della censura. Lo Stato canaglia nemico degli USA, talmente canaglia che nessuno può andare a ficcarci il naso. Ecco, agente Casper, è davvero molto molto difficile da credere. Cioè, se ho capito bene, volevano vedere se lei era, gli americani, se lei era in grado di scoprire questa fabbrica clandestina di dollari. Volevano capire quello, se lei era in grado di arrivarci. Era una classica operazione dalla doppia agenda, come si suol dire, ovvero ti chiedo di andare a fare una verifica in un certo contesto, in un certo settore, per poi in realtà sperare che questa verifica non abbia successo. Perché se non aveva successo voleva dire che i loro controlli, cioè il sistema di controllo che avevano organizzato intorno a questa stamperia di dollari, funzionava. E invece non ha funzionato. E invece non ha assolutamente funzionato. E questa è stata l'inizio della mia fine, certo. O perlomeno di quella che doveva diventare la mia fine. Ecco, però, scusi, una fabbrica così segreta in Corea del Nord, secondo il suo racconto, vuol dire che i rapporti tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord non sono come noi comuni mortali crediamo che siano. Assolutamente vero, per quello che io ho potuto constatare. Però vorrei anche precisare che, a parte il fatto che il mio non è uno studio definitivo sulle super notes, ma l'amministrazione americana in toto evidentemente non è coinvolta in operazioni di questo tipo, però sicuramente ci sono dei reparti dell'intelligence americano che operano in maniera abbastanza indipendente, ma questa è storia, peraltro non c'è niente di nuovo, insomma, tra l'altro è storia che è arrivata anche sul grande schermo con film di grande successo. No, ma i film sono una cosa, la realtà qua la stiamo raccontando, anzi lei la sta raccontando come una cosa vera, non una fiction. Assolutamente, quello che io ho visto e vissuto personalmente. Ecco, senta Gasper, tornerò da lei naturalmente, intanto con noi in studio c'è il giornalista Luigi Carletti, ciao. Buongiorno. Che il libro lo ha scritto, ecco. Lo ha cercato lei per raccontargli questa storia o com'è andata? Guardi, è successo questo. Io questo libro non lo volevo assolutamente scrivere. Io ho tentato di rimuovere tutto questo quando sono tornato nel 2009, perché effettivamente, ora, al di là di qualsiasi riferimento personale un po' patetico, è stato un anno più duro di quello che io potrò mai descrivere in realtà. Ho tentato di rimuovere tutto, non ci sono assolutamente riuscito. Una notte insonne sono andato a cercare cose sulla mia vecchia operazione pilota in rete, e ho trovato un blog di Carletti in cui per la prima volta ho visto delle cose giuste, dritte, serie. Sì. Allora gli ho mandato una mail: grazie Luigi, ci eravamo in realtà conosciuti una ventina d'anni fa dopo l'operazione pilota, però poi ci eravamo persi di vista. E quindi lui per questo, scelto lui per questa ragione. Assolutamente. Incontro sulla rete, ecco Carletti. Quando tu hai poi incontrato fisicamente Casper, ti ha raccontato subito la sua storia? Beh, lui mi ha raccontato prima di tutto la prigionia, l'anno terribile da cui usciva, i 373 giorni in un campo di concentramento con sofferenze inaudite. Ecco, ma dimmi una cosa, tu gli hai creduto subito? Ma tieni conto che io e Casper ci eravamo conosciuti 20 anni prima, quando lui era reduce dall'operazione pilota con i colombiani. Sì. E quella volta facevo fatica a credere che lui avesse fatto quello che era riuscito a fare. Sì. Dopodiché poi ho verificato di persona allora che era vero, come ho verificato di persona adesso che le cose che lui aveva riscontrato erano vere. Ecco, ma dimmi una cosa, come hai verificato... Cioè, che verifica hai fatto concretamente? Sei un giornalista investigativo, che verifica hai fatto? Perché uno si assume una responsabilità fortissima. Certo, io ho parlato con altre persone dell'intelligence regolari. Intelligence italiana, americana? Americana e di altri paesi che si sono occupati o hanno sfiorato l'affare Supernodes. Quali altri paesi? Beh, oltre agli Stati Uniti, persone dell'intelligence inglese e francese soprattutto. E quindi hanno sfiorato in che senso l'operazione Supernodes, Carletti? Nel senso che delle Supernodes, le Supernodes non sono una scoperta di Casper. Sì. In realtà delle Supernodes si parla... Lui le ha viste? Si parla con riscontri piuttosto forti. Un giornalista tedesco del Frankfurter Allgemeine ha anche scritto delle cose piuttosto forti su questo argomento. Beh, lui ha scritto un libro che si chiama Money Makers, in cui si parla appunto di tutti i flussi di denaro, vero, falso o same but different. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Quindi stavi dicendo, queste verifiche le hai fatte anche negli Stati Uniti? Le ho fatte con persone che lavorano nell'ambito dell'intelligence americana, inglese e francese. E ti hanno confermato? Non solo mi hanno confermato, ma mi hanno invitato a lasciar perdere. Ecco, sì. Quindi tu ti aspetti delle reazioni dagli americani con questo libro? Ma su questo sì e no, perché c'è grande imbarazzo su questo argomento a tutti i livelli, sia in Italia, dove l'argomento è ben conosciuto anche in ambito... nell'ambito di organismi parlamentari, sia all'estero. Organismi parlamentari cosa vuol dire? Beh, commissioni che si occupano di che queste... commissione? Ci sono personaggi dei quali in questo momento non sono onestamente autorizzato a rivelare nomi e qualifiche, che però conoscono l'argomento. Delle supernose, ripeto. Ti stavo dicendo, ti aspetti reazioni dagli americani o no? Tu dici no perché c'è imbarazzo. Beh, però... scoprire per davvero che c'è questa fabbrica, no, non saperlo genericamente, ma vederlo, avere un testimone che l'ha visto, c'è andato. Sai, quando, io infatti la quando si parla di reazione degli americani o comunque dell'ambiente dell'intelligence americano, noi siamo sempre molto cauti perché sono tanti ed entriamo in anche un ambito anche in conflitto fra di loro, esattamente. È soprattutto questo che ci può al limite preoccupare, creare dei problemi, ecco. Però Casper, per me la cosa, francamente, per me Giovanni Minoli, la cosa più difficile da credere è che dopo aver scoperto questa incredibile fabbrica di dollari che servirebbe a finanziare operazioni inconfessabili dei servizi segreti americani, intesi in questa accezione generica da definire. Ecco, lei sia qui vivo a parlare con me. Mi è molto difficile capire. Ma è questo quello che è accaduto, peraltro è ormai storia acquisita. Ecco, gli americani, spiega, gli americani, ma non me lo spiego, perché gli americani, nella mia esperienza, io d'altra parte ho un padre americano, ho vissuto in quel paese a lungo, ho studiato in quel paese, ritengo modestamente di conoscere la personalità degli americani. Dispongono di mezzi incredibili, però a volte peccano di una ingenuità che è altrettanto incredibile. Perché nel suo caso loro non l'hanno fatto fuori loro, l'hanno affidato a... Io sono stato affidato a questi, chiamiamoli contractor locali, un reparto gestito da ex Khmer Rossi che si occupa di affari sporchi. E loro mi dovevano liquidare la prima notte dopo il mio blocco. E non l'hanno fatto? Non l'hanno fatto perché mi hanno trovato $70,000 in tasca e hanno detto, bene, da questo è una mucca da mungere. Questa è una mucca da mungere. Prima di ammazzarlo vediamo cosa ne tiriamo fuori. Chi è stato in Cambogia, chi conosce il paese, il popolo, sa perfettamente che è un paese affascinante, però anche devastato da una storia che fa sì che il cambogiano medio, guadagnando $50 scarsi, più fortunati, al mese, si trova in mano $70,000, dice no, fermo un attimo, ti ammazzo dopo, però nel frattempo. Tanto li prendo questi e vediamo quanti altri quanti ne posso altri. Prendere. Ecco, ma lei parla anche nel libro di un ruolo del Ministero degli Esteri italiani nella sua non liberazione immediata. Sì, il Ministero degli Esteri e la Procura della Repubblica di Roma furono notiziati a un certo punto da mia madre, dalla mia fidanzata, disperate a un certo punto, quando si capiva che ormai la situazione era fuori controllo. E il ministro degli esteri dette che ieri sera, tra l'altro, ha deciso di non partecipare alla trasmissione di Porta a Porta. Si dette una risposta, noi abbiamo ancora la lettera, del tutto strana, bizzarra anche, dicendo che loro non si erano ancora interessati perché io non ero entrato in contatto con l'autorità consolare italiana. Dura da fare, Subiscono. Ecco, però alla fine mi sembra che, come tutte le storie italiane, sarebbe stata la mamma, la fidanzata, la moglie, oggi moglie, che lei amava, a salvarle la vita. Quindi, insomma, guardi, alla fine vince l'amore, è un bel lieto fine, diciamo. No, è un lieto fine. Io, infatti, come hanno fatto? Hanno pagato un riscatto che però non sarebbe servito di per sé. Non sarebbe servito perché a un certo punto, finiti i mezzi, che mia madre evidentemente avrebbe e finì poi in realtà, io poi sarei rimasto lì. E sarebbe stato ucciso. Sarei stato ucciso. Ci fu un intervento esterno che fu eclatante e che poi mi consentì al terzo tentativo di un intervento via. Esterno di chi? Di un diplomatico francese, sedicente diplomatico francese, che vorrei riabbracciare in un momento della mia vita, se mi sarà concesso. Perché invece cos'era un sedicente? Dico sedicente perché evidentemente fece tante cose che un diplomatico non dovrebbe fare. E quindi mi aiutò, che l'ha aiutato a scappare, in maniera determinante. Senta, però, sempre il generale Ganzer dei ROS racconta a Carlo Bonini su Repubblica domenica di averla vista l'ultima volta quando lei si è costituito nel 2009 ai ROS per essere accompagnato a Regina Coeli. Perché anche in Italia in galera? Speriamo c'era senza tortura. Senza tortura. Perché per una vecchia vicenda assolutamente non relativa al 2008, vicenda vecchia, assolutamente non conclusa. Una vicenda che riguardava cosa? Riguardava una presunta bancarotta totalmente da dimostrare e assolutamente sua, ancora di altri. di altre, esatto, e assolutamente da concludere, da dimostrare, e forse paventando il pericolo di fuga quando rientrai in Italia. Beh, nei suoi casi forse è bene paventare il pericolo di fuga, a me pare di capire che è più facile. Dopo 373 giorni di sofferenze, la prima cosa che la Procura della Repubblica decise di fare fu di riaccompagnarmi a Regina Coeli. Tengo a sottolineare che io mi presentai al comando del ROS, dove fui rifocillato, ben ricevuto e ahimè accompagnato per qualche giorno. E quanto è durato questo soggiorno? Allora, è durato pochi giorni, però poi in realtà ho avuto delle limitazioni alla mia libertà personale che non mi hanno consentito di passare serenamente gli ultimi mesi di vita di mia madre. Ecco, senta, signor Casper, però se tutto, e siamo qua, e quindi vuol dire che tutto è finito bene, sì, perché mantenere l'anonimato mi sembra una mossa molto di marketing? Ma guardi, io in questo mi sono anche rifatto alle scelte della Mondadori, che ha pubblicato il libro e che ringrazio. E quindi è una scelta editoriale, diciamo. Che è una scelta editoriale anche insieme a Luigi Carletti. Infatti, Luigi, volevo farti l'ultima domanda prima di chiudere. Dopo tutto questo che abbiamo detto, che ho sentito, voglio dirti, lo ripeto, il libro è scritto molto bene, si legge senza un attimo di respiro. Ecco, però, se poi non è tutto vero, almeno sarà un bestseller, è quello che pensi anche tu, che speri? Ma noi lo speriamo, però ci tengo a dire che il libro racconta cose tutte vere e la scelta dell'anonimato è una scelta anche di tutela della persona, perché come sai il libro tocca ambienti e storie che non solo sono quella delle Supernotes. E però sarà difficile fare promozione conservando questo anonimato. Ci proveremo. Comunque ci proveremo. Proverete, io ve lo auguro. 800 24 00 24, numero SMS 349 238 6666, pubblicità. Mix 24. È l'amore che mi prende piano piano per la mano, mentre l'acqua dietro i vetri già discende. Pietrangelo, eccomi. Allora oggi? Oggi ho trovato un 45 giri. Ah, è che una bello, meraviglioso, sì, preziosissimo. E allora ho detto, mettiamolo. Poi è stata tutta una fatica anche a recuperare il giradischi, perché insomma... Però funziona, la musica funziona, è bella. Bellissima, se si può sentire uno, guardate questo soffio. Ed è irriconoscibile chi è l'autore e la voce di questo brano, è l'amore. Mario, tu hai capito chi è? Io, ma figurati. E chi è? È l'amore. È il primo disco di Franco Battiato. Ma che strano. Ma è un agente segreto Franco Battiato. Pure lui è Casper. Lui è un maestro, lui. Un iniziato. Che dici, questa ti convince questa storia, Mario, di Supernotes? Perché tu ben sai che io ho seguito questa cosa qua ho controllato, ho fatto delle verifiche anch'io. Il tema è noto, ci sono dei libri molto interessanti scritti. Qua la cosa fantastica è che hai il testimone. Il testimone che è rimasto vivo, dimmi. E soprattutto è stato torturato dai cosiddetti buoni. Che buoni non erano. Ma mica tanto, dai Khmer Rossi, cioè le eredi dei Khmer Rossi. Per tramite dei signori americani. Vabbè, è quello, ma infatti gliel'hanno abbandonato. Grande storia. Senti, e tu Sara, ti ha convinto? Sicuramente non è che proprio parlare di torture, spie, tradimenti sia proprio un buongiorno meraviglioso. E però allora rallegraci libro, tu. Sì, il libro Supernotes è bellissimo perché l'ho letto, però io preferisco ballare sulla luna. Sara, tra poco condurrà lei, perché è troppo più brava. Ci ritiriamo. Sì, ci ritiriamo. Senti, ma cosa bolle in pettola, Mario? Vabbè, dai. Regolarsi alla velocità luce. No, la velocità luce è troppo lenta. La velocità luce è troppo lenta. Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata. Velocità smodata? Signore, non siamo mai andati così veloci. Non so se la nave potrà sostenere. Qual è il problema, colonnello Nunziatella Cacarella? Balle spaziali era questo, eh? È sempre divertente. Lo evochiamo perché c'è la guerra fredda, come tu ben sai. I segnali ci sono. Ma tutti. Non nello spazio. È vero che Obama e Putin sono ai ferri corti, ma la navicella Soyuz decollerà dal Kazakistan con astronauti russi e un americano. Ma non è stata fermata, siamo sicuri? No, decolla, certi. Decolla e faranno una missione di 6 mesi nella stazione spaziale internazionale. Come vedi, vabbè, poi alla è fine una bella cosa. Sì, gli ambiti di cooperazione ci sono, continuano. Restano, ma sì, ma... però insomma il G8 è una notizia, eh? Vabbè, vuoi sentire qualcosa sul G8? Vai. Limone tutto a sinistra. Tutto a sinistra. Ufficiale di rotta. Sì, nuova rotta 250. Sì, signore, nuova rotta 250. Questo è il mitico comandante Ramius di caccia Ottobre Rosso, eh? Quando il sommergibile sta in missione e preparano la fuga verso gli Stati Uniti. E il G8, vabbè, tu lo evochi, ti dico cosa dice Sergei Lavrov sulla cosiddetta espulsione, cioè, il ministro degli esteri, esatto, russo perché... Sai cosa dice? Cosa dice? Il G8 è sorpassato, non c'è nessuna adesione formale e nessuno può espellerci. Ragione. Ti ho fatto pure l'accento mamma russo mia. Quindi non gliene frega niente. Invece c'è una fuga di capitali dalla Russia, questo dovrebbe preoccupare un po' di più Putin. Sono 70 miliardi di dollari nei primi 3 mesi dell'anno. L'economia russa è debole oggettivamente, non è strutturata al punto da reggere cose del genere, quindi seguiamo 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS e i salamini. E la Berlusconeide, finalmente, dopo tanto tempo, ma tantissimo tempo che proprio ne sentivo la mancanza, Balzac con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa è tornato e ci rallegra aggiungendo un nuovo capitolo a questa Berlusconeide. Fremo. Sai cosa è successo? E cosa è successo? È successo che Berlusconi non ne può più. Ma chi? Non ne può più, di tutti. Te l'ha detto? No? Ma guarda che Balzac l'ha raccontato, perché guarda, non ce la fa più con i cosiddetti lealisti. E cioè con Bondi, Brunetta e compagnia. Non ce la fa più con la vecchia guardia, cioè Verdini, Santanchè, eccetera, eccetera. Non ce la fa più neppure col cerchio magico, dove stanno la Pascale, perfino. Vabbè, finalmente solo. Toti, Ghedini, finalmente solo. È solo. E quindi lui si è ritrovato un po' come... Vi ricordate Io, mamma e tu, quando a un certo punto dice... Iatavenna! Iatavenna! Pure la Pascale, Pascalina, mamma. Sette bellezze. Ecco, a proposito di Europa, tu ne parlavi prima. Sì. Oggi la storia ripercorre le tappe che hanno portato alla firma dei trattati di Roma del 57. Noi ne parleremo nella storia, ma intanto un breve estratto dell'intervista di Marina Milone a Romano Prodi. Il problema è molto semplice: volete andare avanti o volete andare indietro? L'Europa è entrata negli anni della paura e invece andare avanti si è fermata. A questo punto è chiaro che è arrivata la crisi, questa sosta, questa mancanza di mettere in moto tutte le forze europee ha prodotto danni molto molto gravi. Oggi bisogna andare avanti, se no la storia ci uccide. Ecco. Tutto dopo dalle 10. Dopo le 10 la storia di come è nata l'Europa. Intanto, Mario, andiamo avanti. L'hai evocata la storia d'Europa, l'hai voluta, te la do. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Era il grande Paolo Fraiese, grandissimo, grandissimo, insomma, è sì, nel ricordo di tutti noi. Ho evocato il muro di Berlino, si lega benissimo, non l'abbiamo fatto apposta ovviamente alle cose che dice Prodi, perché il presidente della Corea del Sud, che sarà in Germania a visitare per una visita e un incontro con Angela Merkel, proprio là dove c'era il muro, vuole annunciare il suo piano per riunificare le due Coree. C'è una grande attesa su questo. Sapete tutti che uno degli hotspot, diciamo così, delle crisi internazionali è la Corea del Nord, dove tra quindi l'altro dopo... Casper ha raccontato che c'è anche quella cosa là. E quindi dopo una Germania unita aspettiamo una Corea unita. Vuoi la battuta di Andreotti? Aspettiamo che torni la Germania. No, no, cosa no, detto vabbè, mi ricordo la battuta di Andreotti, sì, era questa: amo talmente la Germania che preferisco averne due. Il canzoniere. Allora, Pietrangelo? Il dottor Corrado Sciancalepre arrivò nel suo ufficio verso mezzogiorno. Era stato in pretura a deporre come testimone in un processo di furto col quale si concludeva una paziente operazione che l'anno prima l'aveva occupata a lungo. Partito da un debole indizio, era riuscito a scoprire gli autori del furto e a recuperare la refurtiva. Mix 24. Allora, musica inconfondibile, è una grande colonna sonora, un film stupendo che ha Blade segnato Runner. Un'epoca, Blade Runner, e sai che torna? Torna come? Sì, sì, lo stanno, una nuova edizione, è praticamente Ridley Scott, credo che l'anno prossimo, o nel 2016, vediamo, sia pronto con un nuovo episodio del suo androide, del suo eroe. Naturalmente tutto questo per dirvi un'altra cosa, che c'è un mago delle sceneggiature in America, si chiama Michael Green, una penna prolifica dell'industria di Hollywood, ha scritto Smallville, Heroes, Flash, La Lanterna Verde, insomma. E intanto il nostro gigante canzoniere, 800-24-0024, SMS 349-238-6666, lo rileggi Pietrangelo, così diamo una possibilità in si più. Si tratta di un romanzo italiano, Don Aiuto, stato anche un grande successo televisivo. Il dottor Corrado Sciancalepre arrivò nel suo ufficio verso mezzogiorno. Era stato in pretura a deporre come testimone in un processo di furto col quale si concludeva una paziente operazione. L'anno prima l'aveva occupata a lungo. Partito da un debole indizio, era riuscito a scoprire gli autori del furto e a recuperare... Hanno indovinato, ma indovinato. Sara, mi sembra che ci sia... Lo stiamo convincendo a partecipare, un po' timido. Fatti dire almeno timido da dove viene. Eccolo! Pronto? Pronto! Buongiorno, pronto. Con chi parlo? Buongiorno, Enrico da Sant'Arcangelo di Romagna. Che bello! Allora... bellissimo. Fa sì, bello lì? Complimenti, sì, oggi è una bella giornata, bene. Ieri però era un freddo cane. Forse la giornata più fredda di quest'inverno. Mi racconti un po' che cos'era il nostro canzoniere? Piero Chiara, il giovedì della signora Giulia. Giusto, bravissimo, giusto, bravissimo. Feltrinelli! Ha vinto un Feltrinelli. La musica aiutava. Sì, però bello. Insomma, intanto noi andiamo a sentire che cosa ci racconta il professor Doglio. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno. Senta, giovedì sono uscite alcune indiscrezioni sulle possibilità di investimenti nel mercato televisivo italiano da parte della BBC. Sono fondate, sono voci fondate? Beh, insomma, l'altra settimana abbiamo parlato dei problemi della BBC. Sì, adesso qui invece sembrano l'attacco. Allora, intanto bisogna precisare che si tratta di BBC Worldwide, non della BBC inglese, ma del suo braccio commerciale, quella che opera. Vabbè, è sempre BBC. Se ne sente parlare da un po', c'è una cosa sicura, è vero che il nuovo management di Worldwide, che viene dalla Coca-Cola, predilige una politica commerciale basata sui brand e quindi sta cercando di imporre una linea di diffusione di canali di marca Cosa vuol dire canali di marca? Per capirci? Vuol dire piazzare sui diversi mercati dei canali marcati BBC. BBC Earth, BBC First, BBC... E quelli che vorrebbe piazzare in Italia quali sono? Sta pensando anche che potrebbero, almeno così si dice, potrebbe essere l'Italia uno dei mercati da testare, diciamo. Ma perché è un mercato ancora appetibile l'Italia? Allora, il mercato è appetibile sì, perché qualche segno di risveglio c'è, tutto da verificare sulla pubblicità. E soprattutto ci sono nuovi canali come il pacchetto Discovery, che tra l'altro è un ex partner storico di BBC, che hanno dimostrato di potersi far largo fra le maglie del tripolio, anche grazie a programmi come Top Gear che vengono proprio dalla BBC. Ed è possibile che uno dei canali sia proprio quello che loro chiamano un lifestyle, un canale di attualità generica con dentro programmi tipo Top Gear, Dancing, eccetera, eccetera. Poi forse un canale per bambini piccoli, che in Italia non esiste, sì esiste la versione Rai, ma CBeebies è un grande successo di BBC in Inghilterra, e uno di fiction che mi sembra il più improbabile. Il più improbabile, ecco professore, però in questa ottica, se fossero così le cose, l'asta per le frequenze liberate dal dividendo, insomma, interno al digitale è quella terrestre, che è in corso adesso, ecco, potrebbe richiamare investitori? Ma guardi, non si può escludere che sia stata proprio questa la molla che ha messo in moto consulenti e banche d'affari, che sono in genere loro a presidiare quei territori. Certo. Scarterei l'ipotesi che BBC possa partecipare direttamente, sia perché la qualità delle frequenze in asta è scarsa e sia perché i costi necessari a realizzare comunque le infrastrutture sono alti. Tuttavia, se vuole operare in Italia, deve dotarsi di capacità trasmissiva, deve prendere un quelle che chiamano logical channel number, cioè un numero sotto i 50. Certo, per naturalmente, cioè essere posizionato bene sul telecomando. E quindi non è escluso che possa entrare nell'offerta di qualche provider pay. Non dimentichiamoci che il canale BBC Knowledge, che poi diventerà Earth, è già presente sull'offerta di Mediaset Premium. O più probabilmente... Vabbè, quindi diciamo c'è una possibilità che la BBC arrivi in Italia con dei suoi canali distribuiti da questa apertura che arriva dall'asta delle frequenze liberate, questo no? Oppure acquisendo direttamente posizioni, perché è quello che è successo per esempio proprio recentissimamente a un grosso operatore americano che si chiama Scripps International, che attraverso il gruppo che realizza la F e che gli ha fornito un servizio chiavi in mano, da qua tra poche settimane comincerà a trasmettere con il proprio marchio sul canale 49. Professor Doglio, siamo in chiusura. Il suo parere su questo investimento qual è? Che deve fare molto bene i conti, perché l'Italia è comunque un mercato che in termini di licensing di diritti dà a BBC entrate consistenti. Quindi bisogna fare bene i conti. Grazie professore, ci sentiamo la prossima settimana. Intanto il mercato della fiction è uno dei pochi che funziona in Italia. Sara Tardelli ha intervistato Luciano Manuzzi, regista della fiction Le Due Leggi. Luciano Manuzzi, lei è il regista di Le Due Leggi, la fiction in due puntate che andrà in onda sia questa sera che domani, sempre su Rai 1. Qual è la trama? È la storia di una direttrice di banca che Elena Sofia Ricci. Elena Sofia Ricci, sì, lei è la protagonista assoluta, piuttosto rigida, che di fronte al suicidio di un cliente in difficoltà per i debiti e a cui lei più di una volta ha rifiutato un credito, un finanziamento, resta scioccata e da lì inizia un'elaborazione, una metamorfosi, diciamo così, in cui lei scoprirà la sua nuova modalità per rapportarsi col mondo, a questi clienti, col mondo e soprattutto con la gente che ha bisogno. Comincerà a spostare dei soldi dai conti dei più facoltosi a quelli meno fortunati economicamente, e in più tra l'altro scoprirà anche che c'è qualcosa che non va nella sua banca. Assolutamente sì, perché comunque voglio dire di scandali finanziari sono zeppe le cronache e questi scandali sono spesso derivati fondi che vengono legati a mutui, invece spesso e volentieri sono azioni vere e proprie fraudolente. Senta, ma la fiction secondo lei sta cambiando, cioè meno finzione più realtà? Assolutamente sì, perché comunque voglio dire tutto questo è anche frutto di un percorso che naturalmente la nuova direzione fiction, cioè Tini Andreatta e Nardella, sono riusciti a imprimere, perché fino a qualche tempo fa la frequenza di questi temi non era così scontata. Le due leggi, no? Questa fiction doveva andare in onda settimane fa, e invece come mai è stata posticipata? C'è stato un problema, quale? Il nome che avevamo scelto per la banca, naturalmente fittizia, che noi raccontiamo, ricalcava un nome di un broker con una finanziaria del nord. Siamo dovuti intervenire a modificare tutte le scritte, insomma è stato un lavoraccio e ha comportato queste due settimane di slittamento praticamente. Quindi senza volerlo siete stati più veri della realtà? Senza volerlo. Una curiosità, ma come mai una donna al centro di una fiction che parla di banche, di luoghi d'affari, è stata scelta perché si vuole essere moderni e far vedere che la donna oramai è al centro del mondo del lavoro, o più per la sua capacità di cambiamento? Forse più per la sua capacità di cambiamento. Questa mutazione, questo impugnare la propria sensibilità è molto più facile che succeda in una donna piuttosto che in un uomo. Ecco, oggi su Mix 24 la storia, in prossimità, insomma nell'avvicinarsi delle elezioni europee, ripercorriamo la storia dell'integrazione europea, le vicende che portarono la storica firma dei trattati di Roma del 57. In chiusura Marina Milone, che racconta naturalmente la storia come sempre, intervista Romano Prodi, che dirà la sua sul percorso che l'Europa deve fare.